Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti, ci butteremo in apparenti progressi, ci butteremo anche nella struttura ideologica della nostalgia. Parleremo di famiglie cristiane e di classici svelti.